spero, si bella calenze, non ordi mai più dolci nodi amore, degno premio al valor d'un si bel cuore. Se più volte il tuo brando troncò gli ingiusti ceppi al nostro impero, se i ribelli vincesti ed i nemici con gloriosi auspici, come ben giusto in mercede tue fasti al degno crine, il lauro io porga e ti incoroni augusto. Signor, al tuo volere non ricuso l'onore di sì gran dono, poiché degno mi fai, degno ne sono.